Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Avete conosciuto nel 1814 o nel 1815 un marinaio che si chiamava Dantès? Dantès? Se ho conosciuto il povero Edmond, ma lo credo bene. Era uno dei miei migliori amici, esclamò Caderousse, il cui volto si era fatto di porpora. E che ne è stato, signore, del povero Edmond? Lo avete conosciuto? Dov'è adesso? È felice? È morto prigioniero, più disperato e più miserabile dei forzati che trascinano la loro catena nella galera di Tolone. Un pallore mortale sostituì il rossore di poco prima sul viso di Caderousse. Si voltò e l'abate lo vide asciugarsi una lacrima con un lembo del fazzoletto rosso che gli serviva da berretto. «E di che male è morto?» domandò Caderousse con voce soffocata. «Di quale male si muore in prigione all'età di 30 anni se non è la prigione stessa che uccide?» Caderousse si asciugò il sudore che gli colava dalla fronte. «Quel che c'è di strano in tutto questo», rispose l'abate, «è che Dantès sul letto di morte mi ha sempre giurato, sul crocifisso di cui baciava le piaghe, di non conoscere la vera causa della sua prigionia. Ed è per questo che mi ha incaricato di mettere in chiaro ciò che non aveva mai potuto rischiarare da sé e di riabilitare la sua memoria, se questa memoria fosse stata macchiata». Lo sguardo dell'abate, divenendo sempre più fisso, divorò l'espressione quasi tetra che apparve sul viso di Caderousse. «Un ricco inglese», continuò l'abate, «che fu suo compagno di prigione e che venne liberato alla seconda restaurazione, possedeva un diamante di grande valore. Uscendo di prigione, siccome Dantès lo aveva assistito come un fratello in una lunga malattia che aveva sofferto, volle lasciargli una testimonianza della sua riconoscenza e gli regalò questo diamante. Dantès, invece di servirsene per sedurre i suoi carcerieri, che d'altronde potevano prenderlo e poi tradirlo, lo custodì sempre gelosamente, in caso fosse uscito di prigione. Se fosse uscito, la sua fortuna sarebbe stata assicurata con la vendita di quel diamante, stimato 50.000 franchi. L'abate prese dalla tasca una scatolina di marocchino nero, l'aprì e fece brillare davanti agli occhi abbagliati di Caderousse la sfavillante meraviglia, montata su un anello di mirabile lavorazione. «Ma come mai possedete questo diamante, signore?» domandò Caderousse. «Edmond vi ha forse nominato suo erede?» «No, ma suo esecutore testamentario. Avevo 3 buoni amici e una fidanzata», mi disse, «e tutti e 4, ne sono certo, mi rimpiangano amaramente. Uno di questi miei buoni amici si chiama Caderousse». Caderousse rabbrividì. «L'altro», continuò l'abate senza mostrare di essersi accorto dell'emozione di Caderousse, «l'altro si chiamava Danglars, il terzo», soggiunse, «benché mio rivale, mi amava ugualmente e si chiamava Fernand. In quanto alla mia fidanzata, il suo nome era...» «Ma non ricordo più il nome della fidanzata», disse l'abate. «Mercedes», disse Caderousse. «Ah, sì, sì, è questo», riprese l'abate con un sospiro soffocato. «Mercedes». «Ebbene», domandò Caderousse, «andrete a Marsiglia? È sempre Dantès che parla, capite bene?» «Ah, oh, perfettamente!» «Venderete questo diamante, ne farete 5 parti e le dividerete fra questi miei buoni amici, i soli esseri che mi abbiano amato su questa terra». «In che modo 5 parti? Disse Caderousse. «Non mi avete nominato che 4 persone? «Perché la quinta è morta, da quanto mi è stato detto. La quinta era il padre di Dantès». «Ah, sì, purtroppo è vero», disse Caderousse, commosso dalle passioni contrastanti del suo cuore. «Sì, purtroppo il povero uomo è morto». «Ma di che cosa morì?» «I medici definirono la sua malattia gastroenterite, credo. Quelli che lo conoscevano dicevano che era morto di dolore. E io, che l'ho quasi visto morire, dico che è morto. Caderousse si fermò. Morto di cosa? Riprese con ansietà l'abate. Ebbene, morto di fame. Di fame! Esclamò l'abate sobbalzando sullo sgabello. Di fame! Il più vile degli animali non muore di fame. È un uomo, un cristiano. È morto di fame in mezzo ad altri uomini che si dicono cristiani come lui. Impossibile! Oh, questo è impossibile! È andata proprio così! Riprese Caderousse. Una voce dalle scale disse: «Di che ti immischi tu?» I due uomini si voltarono e videro attraverso la scala la testa malaticcia della Carconte. Si era trascinata fin là e ascoltava la conversazione seduta sull'ultimo scalino con la testa appoggiata alle ginocchia. «Ma di che vieni tu a immischiarti, moglie?» disse Caderousse. «Questa signora domanda delle informazioni e cortesia vuole che io gliele dia. Ma la prudenza vuole che tu taccia. Chi ti dice con quale intenzione ti si vuol far parlare, imbecille?» «State tranquilla, buona donna», rispose l'abate. «Nessuna disgrazia verrà da parte mia. Ve lo garantisco». La Carconte brontolò qualche parola che essi non poterono comprendere. Lasciò ricadere sulle ginocchia la testa che aveva sollevato per un istante e riprese a tremare per la febbre, lasciando il marito libero di continuare la conversazione, ma mettendosi in posizione tale da non perderne una parola. Intanto l'abate aveva bevuto qualche sorso d'acqua e si era calmato. «Ma», riprese, «questo disgraziato vecchio era quindi talmente abbandonato da tutti che dovette morire di una morte simile?» «Oh, signore», riprese Caderousse, «Mercedes, la catalana e il signor Morrel non lo avevano abbandonato, ma il povero vecchio nutriva una profonda antipatia per Fernand. Quello stesso Fernand», continuò Caderousse con un sorriso ironico, «che Dantès vi disse che era uno dei suoi amici». «Allora non lo era?» domandò l'abate. «Si può mai essere amico di colui al quale si vuole portare via la fidanzata? Ah, Dantès, che aveva un cuore d'oro, chiamava tutti suoi amici. Povero Edmond. Eppure, è meglio che non abbia saputo niente. Avrebbe fatto troppa fatica a perdonare loro in punto di morte, sebbene che chi se ne dica...» Continuò Caderousse con il suo linguaggio che non mancava di una specie di rozza poesia. «Io abbia più paura della maledizione dei morti che dell'odio dei vivi». «Imbecille!» disse Carconte. «Sapete forse», continuò l'abate, «cosa ha fatto questo Fernand contro Dantès?» «Se lo so, lo credo bene». «Parlate allora». «Gaspar, fa ciò che vuoi, sei tu il padrone», disse la moglie. «Ma se mi dai retta, non dirai niente». «Questa volta, moglie mia, credo che tu abbia ragione», disse Caderousse. «Siete libero di tacere, amico mio», disse l'abate con il tono della più grande indifferenza. «E rispetto i vostri scrupoli. Di che cosa ero incaricato? Di una semplice formalità. Venderò questo diamante». Ed estrasse di nuovo il diamante dalla tasca, aprendo la scatoletta. «Vieni qui a vedere, moglie mia», disse Caderousse con voce rauca. «Un diamante!» disse la Carconte levandosi e scendendo con passo abbastanza fermo la scala. «Perché questo diamante?» «Allora, non hai capito, moglie!» disse Caderus. «È un diamante che il giovane ci ha lasciato, prima a suo padre, poi ai suoi tre amici, Fernanda, Anglara e me, e a Mercedes, la sua fidanzata. Questo diamante vale 50.000 franchi. Oh, che bel gioiello!» disse lei. «Allora, un quinto di questa somma ci appartiene!» disse Caderus. «Sì!» rispose l'abate, oltre alla parte del padre di Dantes, che mi credo autorizzato a ripartire su voi quattro. «E perché su noi quattro?» domandò la Carconte. «Perché voi eravate i quattro amici di Edmond. Non sono amici coloro che tradiscono», mormorò sottovoce la donna. «Sì, sì», disse Caderus. «È quasi una profanazione, quasi un sacrilegio dare una ricompensa al tradimento e forse anche al delitto». L'abate, rimettendo il diamante nella tasca della sua sottana, disse: «Ora datemi l'indirizzo degli amici di Edmond affinché possa eseguire le sue ultime volontà». Caderus e sua moglie si guardarono con un'espressione eloquente. «Il diamante sarebbe tutto nostro», disse Caderus. «Lo credi?» disse la donna. «Un uomo di chiesa non vorrà ingannarci». «Ah, fa come vuoi», disse la donna. «Quanto a me, io non me ne immischio». E tutta tremante riprese la via della scala. I suoi denti battevano, malgrado facesse davvero caldo. Sull'ultimo scalino si fermò un istante. «Riflettici bene, Gaspar», disse. «Sono deciso», rispose Caderus. La Carconte rientrò sospirando nella sua camera. «Cosa avete deciso?» domandò l'abate. «Vi dirò tutto», rispose l'altro. «Prima di tutto, signore», disse Caderus all'abate, «dovete assicurarmi che non si saprà mai che io vi ho fornito questi particolari, perché costoro di cui sto per parlarvi sono ricchi e potenti, e se dovessero toccarmi con la sola punta di un dito, mi farebbero a pezzi come vetro». «State tranquillo, mio buon amico. Ricordatevi che non abbiamo altro scopo che eseguire degnamente le ultime volontà del nostro amico. Cominciamo da suo padre, per piacere», disse l'abate. «Edmond mi ha parlato molto di questo vecchio, per il quale nutriva un grandissimo affetto». «Ebbene, dopo che Dantes fu arrestato, il signor Morrel corse via per avere informazioni. Furono tristissime. Il vecchio Dantes ritornò allora solo a casa sua, piegò gli abiti di nozze piangendo. Passò tutta la giornata camminando nella sua camera e la sera non dormì. Io che abitavo sotto di lui lo sentii muoversi tutta la notte. Anche io, devo dirlo, non dormii. Il dolore di quel povero padre mi faceva molto male e ciascuno dei suoi passi mi si ripercuoteva nel cuore come se avessi i suoi piedi sul petto. L'indomani Mercedes venne a Marsiglia per implorare la protezione del signor di Villefort, ma non ottenne nulla. Poi andò subito a fare visita al vecchio. Quando lo vide così triste e abbattuto, che aveva passato tutta la notte senza riposare, non aveva mangiato dal giorno prima, Volle condurlo con sé per prendersene cura, ma il vecchio non acconsentì in alcun modo. No! Diceva. Non lascerò mai questa casa, perché sono certo che il mio povero figlio mi ami sopra ogni altra cosa. E se esce di prigione correrà a trovare me per primo. Che direbbe se non fossi qui ad aspettarlo? Povero padre, mormorò l'abate. Di giorno in giorno egli viveva più solo e più isolato. E spesso il signor Morrel e Mercedes venivano a trovarlo, sì, ma la sua porta era chiusa e benché fosse certamente in casa, non rispondeva a nessuno. Un giorno, contrariamente al solito, ricevette Mercedes e la povera ragazza, anche lei disperata, cercò di confortarlo. Credimi, figlia mia, disse il vecchio, Edmond è morto e invece di essere noi ad aspettarlo, è lui che aspetta noi. Io sono molto felice perché, essendo più vecchio, sarò il primo a rivederlo. Vedete, per quanto uno sia buono, si stanca ben presto di vedere le persone che lo rattristano, e così il vecchio Dantès finì per rimanere completamente solo. Io non vidi più nessuno salire da lui, se non ogni tanto certi sconosciuti che scendevano poi con degli involti mal nascosti. Seppi in seguito che cosa contenevano quegli involti. Egli già vendeva poco a poco tutto ciò che aveva per vivere. E infine il buon uomo terminò i suoi poveri arredi. Era debitore di 3 rate di pigione. Fu minacciato di essere cacciato e chiese una dilazione di 8 giorni che gli venne accordata. Io lo so, sì, insomma, so questi particolari perché l'esattore entrò da me, uscendo da lui. Nei primi 3 giorni lo sentì camminare come suo solito, ma al quarto non sentì più nulla e mi arrischiai a salire. La porta era chiusa. Guardai attraverso la serratura e lo vidi tanto pallido ed estenuato che, comprendendo quanto fosse malato, feci avvertire il signor Morrel e corsi da Mercedes. Tutti e due si affrettarono a venire. Morrel condusse un medico che diagnosticò una gastroenterite e ordinò la dieta. Io ero presente, signore, e non dimenticherò mai il sorriso del vecchio a quella raccomandazione. Da quel momento lasciò aperta la porta. Aveva una scusa per non mangiare più. Il medico aveva ordinato la dieta. L'abate emise una specie di gemito. Questa storia desta in voi molto interesse, signore, non è vero? Si interruppe Caderousse. Sì, rispose l'abate. È commovente. Mercedes ritornò. Lo trovò così cambiato che come la prima volta voleva farlo trasportare nella sua baracca. Questo era anche il parere di Morrel, che avrebbe voluto farlo trasportare a viva forza, ma il vecchio gridò tanto che ebbero paura. Mercedes restò al suo capezzale. Morrel si allontanò facendo segno alla catalana che aveva lasciato una borsa sul caminetto. Ma forte dell'ordine del medico, il vecchio non volle prendere nulla e infine, dopo 9 giorni di disperazione e di astinenza, spirò, maledicendo quelli che erano stati causa della sua disgrazia e dicendo a Mercedes: «Se un giorno vedrete il mio Edmond, ditegli che io muoio benedicendolo». L'abate si alzò e fece 2 giri per la stanza, portando la mano tremante alla gola secca. «E voi credete che lui sia morto?» «Di fame, signore, sì, di fame», disse Caderousse. «Ne sono certo, quanto è vero che siamo 2 buoni cristiani!» Passiamo dunque a questi uomini, disse l'abate. Rifletteteci bene, continuò con tono quasi minaccioso. Vi siete impegnato a dirmi tutto. Sentiamo dunque. Chi sono coloro che hanno fatto morire il figlio di disperazione e il padre di fame? Fernand e Danglar, signore, due uomini gelosi di Edmond, uno per amore, l'altro per ambizione. E dite, come si manifestò questa loro gelosia? Essi denunciarono Edmond come agente bonapartista. Ma chi dei due lo denunciò? Chi dei due fu il vero colpevole? Tutti e due, signore. Uno scrisse la lettera e l'altro la portò alla posta. Continuate. Danglar scrisse la denuncia con la mano sinistra perché non fosse riconosciuta la grafia e Fernand la spedì. Ma, gridò d'improvviso l'abate, voi eravate là. Ah, è vero, disse Caderousse con voce soffocata. Io c'ero. E non vi siete opposto a questa infamia? Esclamò l'abate. Allora siete il loro complice. Signore, disse Caderousse, essi mi avevano fatto bere tanto che quasi avevo perso la ragione. Non vedevo che attraverso una nebbia. Ma l'indomani avrei voluto parlare. Avrei voluto raccontare tutto, ma Danglar mi trattenne. E se per caso fosse colpevole, mi disse, se fosse approdato davvero all'isola d'Elba, se portasse davvero con sé una lettera per il comitato bonapartista di Parigi, se gliela trovassero addosso, chi l'avrà sostenuto passerà per suo complice. Ammetto che ebbi paura della situazione politica di allora. Tacqui, e fu per vigliaccheria, ne sono consapevole, ma io non ho commesso nessun crimine. Capisco. Avete lasciato che le cose andassero, ecco tutto. Sì, sì, signore, rispose Caderousse, ed è un rimorso che mi perseguita, notte e giorno. Va bene, disse l'abate. Avete parlato con franchezza, e l'accusarsi in questo modo è come meritare il perdono. Si fece un momento di silenzio. L'abate si era alzato e passeggiava pensieroso. Ritornò al suo posto e si sedette di nuovo. Mi avete nominato due o tre volte un certo signor Morrel, disse. Chi era quest'uomo? Era l'armatore del Faraon, il padrone e protettore di Dantès. E che parte ha avuto quest'uomo in tutta quella triste faccenda? Chiese l'abate. La parte di un uomo onesto, coraggioso, affezionato, signore. Provò una ventina di volte a intercedere per Edmond. Quando ritornò l'imperatore, scrisse, pregò, minacciò e tanto fece che durante la seconda restaurazione fu molto perseguitato come bonapartista. 10 volte, come vi ho detto, andò dal padre di Dantès per offrirgli ospitalità a casa sua e il giorno precedente, sì, insomma, la sua morte, lasciò sul caminetto una borsa con la quale furono poi pagati i debiti del buon uomo e le spese dei funerali. Povero vecchio Dantès, poté almeno morire come era vissuto, senza essere di peso a nessuno. Ho ancora io quella borsa, una grossa borsa di seta rossa. E questo signor Morrel vive ancora? Chiese l'abate. Sì, disse Caderousse. E in questo caso, riprese l'abate, deve essere un uomo benedetto da Dio, deve essere ricco, felice. Caderousse sorrise amaramente. Sì, felice come posso esserlo io, disse. Come? Morrel sarebbe rovinato? Gridò l'abate. È vicino alla miseria, signore, e peggio ancora, è vicino al disonore. E come? Sì, rispose Caderousse. È proprio così. Dopo 20 anni di fatiche, dopo essersi acquistato il posto più onorato fra i commercianti di Marsiglia, Morrel è completamente rovinato. In 2 anni ha perso 5 bastimenti, subito 3 fallimenti terribili. E ora non ha più altre speranze che quello stesso Faraon che era comandato dal povero Dantès e che deve ritornare dalle Indie con un carico di cocciniglia e di indaco. Se questo bastimento si perde come gli altri, egli è del tutto rovinato. E il disgraziato ha moglie? Figli? Disse l'abate. Sì, ha una moglie, che in tutte queste avversità si è comportata come una santa. E poi ha una figlia, che stava per sposare l'uomo da lei amato, ma la famiglia di lui si è opposta al matrimonio, perché lei era la figlia di un uomo fallito. E infine ha un figlio sottotenente nell'esercito. Ma voi lo capirete bene. Tutto ciò non fa che raddoppiare il dolore del povero uomo invece che alleviarlo. Se fosse stato solo, si sarebbe fatto saltare il cervello e tutto sarebbe finito. È spaventoso, mormorò l'abate. Ecco come Dio ricompensa la virtù, Signore. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it